Allora, le piacciono le penne? Piacciono? Le piacciono? Do you like penne? Oh, yes! Buonissimo! Buonissime! Oh, right! Buonissime! Earlier you heard Lorenzo say... Le piace il cibo piccante? But now he uses a different phrase. Le piacciono le penne? Both phrases... Le piace? And... Le piacciono? Mean you like or do you like. But you use the first... Le piace? Before a singular word such as... Il cibo. Le piace il cibo piccante? And you use the second... Le piacciono? Before a plural word such as... Le penne. Le piacciono le penne?